Allora ti puoi immaginare la faccia di papà stamattina quando gli ho detto sì, va bene, sono molto contento, ma dopo la laurea vengo a lavorare al negozio con te. Tu hai fatto questo? Sì, e non sai quale discussione ci fu quando mi iscrissi all'università. Tre generazioni di gioiellieri, la corona reale sulla vetrina, e tu, e tu! Diceva così papà, si disperava, ma io ero irremovibile. Io ho orrore del vostro mestiere, stare dietro al banco. Insomma, non puoi immaginare che cosa accadde in quei giorni. Papà non mi parlava, muso lungo, mamma correva dall'uno all'altro. Si calmò quando mi fecero littore perché il mio nome comparve sui giornali. Perciò oggi è rimasto a bocca aperta. Io ho seguitato, vengo a negozio e mi dai quelle 2000 lire al mese che mi promettesti se non entravo in facoltà. E la laurea? Dice lui. L'attaccherò in un quadretto, o mi servirà per poter offrire i gioielli in versi sciolti. Insomma, io continuavo su questo tono e lui esplode, butta via il tovagliolo urlando, dice: Ma per l'amor di Dio, Andrea, che significa tutto questo? Sentì, sinuela, un vocione. Papà, quando è arrabbiato, ma io lo conosco. Calmo, rispondo, significa che ho bisogno di guadagnare perché mi sposo. Hai detto così? Proprio così? Proprio così. Vedi la scena, no? Papà grida, s'alza. Il pranzo va per aria. La cameriera arriva con la carne. Papà strilla: Non mangio più! Non mangio più! Ma io so come è fatto. Tra un mesetto ti porto a casa. Domani metto sul comodino la tua fotografia. Fino allora Andrea aveva parlato con orrore della vita di negozio. Detestava tutto, dallo strappo della saracinesca ai velluti della vetrina, all'attesa servile ed esasperante del cliente. Pensava perfino che a guardare sempre le pietre con la lente ci si guasti la vista. Tutti i gioiellieri portano gli occhiali. Odio quella vita che si trascinano da anni. Papà che mostra le pietre come se maneggiasse strumenti di precisione, i commessi che vanno con passi feltrati. Mamma seduta nel retrobottega, una stanzetta calda e mobiliata con una stanza di casa. Va lì ogni pomeriggio, si toglie il cappello, cuce. Se un cliente entra, posa il lavoro sui ginocchi, tende l'orecchio, poi riprende a lavorare. Quando il negozio è vuoto, papà siede con lei, leggendo il giornale. E adesso Andrea aveva accettato tutto questo per lei. Era questo il momento di parlare e dire: Senti, Andrea, devo dirti una cosa passata. Finita, figurati, lui è morto, ma intanto è rimasta la bambina. Andrà in Svizzera. Tu sei un ragazzo intelligente, capirai. Era necessario parlare, altrimenti tutti questi discorsi, questi disegni d'avvenire apparivano inutili, macabri, come preparare i panni per un figlio che si sa nascerà morto. Senti, Andrea, no, non sento nulla. So bene che vuoi parlarmi del tuo denaro. Va bene, ci sarà il tuo denaro, ma col mio. O ti vergogni d'essere la moglie di un negoziante invece che di un professore di filosofia? Non era possibile parlare. Egli aveva ripreso a dire della casa. Voi donne non potete capire. Per voi anche la casa dei genitori è la vostra casa, ma noi siamo estranei, in qualunque casa che non sia la nostra. Voglio dire la casa dove è la nostra donna, dove nascono i nostri figli. E io voglio avere uno scaffale dove poter ordinare i miei libri senza che papà vi metta accanto i suoi romanzi gialli, rientrare e sapere che qualcuno aspetta me, proprio me. Ma forse vorrai venire anche tu qualche volta al negozio come la mamma, ridendo aggiunse, quando io porterò gli occhiali. E le batté la guancia affettuosamente. Come dire ad un tratto, Andrea, io ho una bambina egoista che viveva in un suo mondo dove gli altri entravano solo per servire le sue comodità. Quando la madre andava a trovarla, dopo un po' che erano insieme, la bambina esprimeva il desiderio di tornare a giocare con le compagne. Non avevano mai nulla da dirsi, salvo cose insignificanti. Che ti porto? Che mi porti? Appena Stefania aveva preso il pacco ed Emanuela gliel'aveva dato, non avevano più nulla da fare insieme. Emanuela voleva stringerla, abbracciarla, sentire l'odore dei suoi capelli, ma solo per un attimo poteva godere di questo. Presto la bambina si staccava, si divincolava, cercava una sua propria autonomia. Non vale la pena, pensava la madre, di farli, patirli, i figlioli, se neppure si possono stringere un momento tra le braccia. La sua maternità esisteva solamente dietro la porta di quel collegio che pareva un ospedale. Le bastava uscire di lì per liberarsene. Il fastidio per lei era solo quello di dover inventare qualche bugia per andare a trovare la bambina, il timore che Andrea si avvedesse dell'inganno. Non osava neppure dirgli: vado a trovare una mia nipotina, per tema che egli le chiedesse d'improvviso: non sarà tua figlia invece? Comprendeva che seguitando a tacere la situazione peggiorava ogni giorno e tuttavia non poteva parlare. Provava solo uno struggimento interno quando udiva Andrea fare questi disegni per il futuro. Allora le salivano le lacrime agli occhi. Egli credeva che fosse per la commozione, la trattava da sciocca, le apriva la borsa, le metteva lo specchietto davanti agli occhi per mostrarle come fosse buffa quando piangeva. Poi le prendeva le mani, gliele stringeva, diceva: cara moglie, senza capire che lei piangeva, perché tutto ciò non avrebbe potuto essere mai. Perciò Emanuela decise: è più semplice continuare così. Papà mi aiuterà, parlerà lui alla vigilia del matrimonio. Andrea mi adora, Andrea non potrebbe vivere senza di me. La sera raccontò alle compagne della decisione di Andrea. Silvia osservò colpita: quanto deve amarti per rinunciare al suo lavoro. E Valentina le chiese se non si sentisse straordinariamente felice. Pochi giorni dopo, Emanuele e Andrea andarono con Vinca a vedere il nuovo studio di Luis. Andrea aveva resistito sul principio. Mi piace poco quella ragazza. Che rapporti ci sono tra quei due? Neppure sono fidanzati. Ti dirò, non mi sembra serio per te. E poi una ragazza che non studia, non fa nulla, perché non ritorna al suo paese? Perciò Emanuela temeva che l'incontro fosse freddo, invece Andrea si interessò ai discorsi di Luis. Costui non era bello come Vinca l'aveva descritto, piuttosto basso e bruno, aveva una larga bocca che mostrava denti bianchi e quini, parlava un suo italiano comicamente mescolato di parole e cadenze spagnole, gesti voluminosi accompagnavano la sua conversazione. Lo studio non aveva di notevole che il vecchio portoncino con quel fregio del Rinascimento. La scala era angusta e poco rischiarata. Ma mentre i tre salivano, una porta s'aprì e lasciò sfuggire un odore di fritto e il pianto di un bambino. L'ultima rampa era più stretta e ripidissima. Bisognava andare l'uno dietro l'altro. Poi si trovarono in uno stanzone disadorno, col tavolo da disegno in un angolo, le pareti coperte di progetti architettonici, due divani letto e un servizio da tè. Ma ogni cosa era annobilita dalla luce che entrava da una grande vetrata, dalla quale si vedeva un pittoresco insieme di casuzze, di archetti e dietro tutto il morbido verde del Gianicolo. Luis li aspettava con Pepe e altri studenti. Adesso è meglio che tutti noi spagnoli stiamo insieme, diceva. E perciò aveva voluto che Vinca conoscesse i suoi amici. Ma ella rimaneva impacciata, non si sentiva compatriota degli altri come di Luis. In fondo pensava, non ci si abbraccia mica con tutti quelli che hanno il nostro stesso passaporto. Egli la trattava come un'amica, come Emanuela, e ciò la indispettiva. Se non voleva far sapere agli altri del loro amore, perché l'aveva fatta andare lassù? Andrea e i ragazzi parlavano di politica, gli spagnoli ad alta voce. Andrea con il suo tono risoluto e calmo. Le fanciulle s'erano sedute sul divano letto. Vinca era così stonata che neppure pensava: qui dorme Luis. Si teneva accosto a Emanuela, ma anche con lei si sentiva diversa. Non era come al collegio. Qui, in mezzo agli altri, non sapevano che discorsi fare. S'alzarono per guardare i progetti attaccati al muro. Molti portavano la firma di Luis, altri di amici ugualmente spagnoli. Case alte con piatte facce turchine, larghe vetrate che si sarebbero arroventate al sole. Una villetta rossa che sembrava un grosso dado e aveva finestre tonde a doblò. Quattro cipressetti rigidi come giocattoli erano dipinti avanti all'ingresso della villa e rappresentavano l'unico guizzo di poesia dell'archetto. Vinca, estatica, guardava i progetti e ripeteva: che artista! E volgeva lo sguardo a lui che, animato, discuteva, parlava di Spagna rossa, di Spagna martoriata, chiese sventrate dalle bombe, donne gettate a mare nei sacchi, bimbi con le mani tagliate. Nei cimiteri i morti erano disseppelliti. La mamma di Vinca era sepolta in Spagna. La ragazza sussultò. Sì, disse volgendosi, bisogna che finisca. Non possiamo fare niente, noi, tutti noi. Dobbiamo restare con le mani in grembo a vedere la distruzione del paese. La sua improvvisa esclamazione fece tacere i ragazzi. Luis si levò, le mise una mano sulla spalla, affettuosamente disse: che hacer? Che fare, Vinca mia? A questo punto una donna non più giovane, con i capelli rossicci Il viso biaccato, grassa, che indossava un chiaro vestito a fiori, spinse la porta e irruppe nella stanza, seguita da una ragazza pallida e da un giovane in occhiali. Erano i tre altri spagnoli. La ragazza era fidanzata con Pepe e il fratello di lei, Ignacio, studiava con gli altri architettura. Molte volte Vinca aveva udito parlare di loro. La madre si sedette pesantemente sul divano, ma per la sua corporatura doveva restare sull'orlo, tutta ansante per la lunga scala salita, per il caldo che cominciava a divenire opprimente. Lui faceva le presentazioni e lei dava la mano, sorridendo, ma distratta, svagata dalla sua stanchezza. Parlava a voce alta, stridula e cadenzata. Ahi, diceva, abbiamo tenuto che venire a piedi. Niente vetture sulla piazza e Pilar diceva, e a chi vicino, a chi vicino. Stanca me sento, le scale, però meglio qua su, perché non aprire un poco la finestra? Il sudore le colava sul viso dipinto. Pilar si era avvicinata a Vinca, si sorridevano senza parlare, manifestando l'una per l'altra una timida simpatia come avviene negli incontri dei bambini. La signora osservò Emanuela e Vinca con l'occhialetto e poi esclamò: Dios, che incanto, che bellezas! Quale di queste due è la fidanzata di Luis? Era la prima volta che Vinca si sentiva nominare così e non osava rispondere, ma avendola Emanuela sospinta per il braccio, rispose affrettata: Io, vieni che ti miri, fatti vedere. Quanti anni hai? 21? O come la mia Pilar? Hai visto la mia Pilar? Poi distolse lo sguardo. Vinca non le interessava più. Era agitata per una visita che aveva ricevuto al mattino e non poteva pensare ad altro e ansava smaniosa di raccontare. E stamattina entra in camera mia la criada, come dite, la cameriera, e mi fa: c'è una signorina che viene dalla Spagna. Figurense, stavo così, spettinata, in vestaglia, ma dalla Spagna, aveva detto. Vengo subito, rispondo. Che aspetti, che aspetti? Vado e trovo una creatura preziosa, bellissima, bionda, snella, bionda platino, proprio come un artista del cine. La mandava da me un'amica mia, una vecchia amica, alla quale quelle belve hanno ammazzato il figlio, così, nios ni dios, una palotola nella schiena, pum, lì, a 22 anni. Dunque la ragazza era pallida, di cera, la pobrezita, e salva per miracolo. Che volevano fucilarla perché è fidanzata con un falangista. È stata carcerata un mese con le altre donne, gente dell'aristocrazia, due monache e una donna incinta. L'hanno arrestata in mezzo alla strada. Venga con noi. E lei subito aveva pensato, me matano. E dunque l'arrestano. Pilar l'interruppe, sì, ma di prima che lei non è spagnola, che al consolato. Ah, vero, vero. Lei dunque è nordamericana, ma le piace la Spagna, ya lo creo. La madre è spagnola. Lei vive in Spagna. Al consolato americano le dicono: stia tranquilla, lei è suddita americana. Non possono farle nulla, non la toccano. Ma quelli sì, mica ti domandano le carte. Carcerata dunque in un sotano, come si dice, una cantina, con quelle altre. Due ne uscirono per essere fucilate. Le chiamano. Dicendo così, vamos de paseo, una passeggiata, e non ritornano più. È arrivata qui esausta, morta di fame, mi raccontava tutto ciò mentre le davo la minestra. Notte e giorno le monache pregavano e la donna incinta piangeva finché un giorno comincia a lamentarsi, poi si mette a urlare e sono le doglie del parto. 24 ore di doglie, strilli e strilli, quelle belve neppure s'accostavano e loro bussavano alla porta, niente, sole lì come cani, al buio. Le monache aiutavano quella poveretta che il giorno dopo finalmente si libera. Morto il bambino, interruppe Pilar. Donna Ines la guardò male perché le aveva tolto di bocca le parole e l'effetto. Poi continuò più piano, già. Morto. E la madre, mezzo dissanguata lì nel sudiciume, a piangere, a disperarsi, a scaldare col fiato il nigno perché tornasse a vivere. Dopo 2 giorni si portano via il cadavere. La madre aveva la febbre forte, l'infezione, smaniava. Le monache avevano ripreso a pregare. Quel borbottio, dice la mociaccia, faceva diventare pazzi. Il domani una di quelle belve apre la porta e dice: Es domingo. Si mangia arrosto oggi, lepre arrosto. lo divorarono tutte, affamate, anche le monache, anche la puerpera, e quelli dopo in due o tre sulla porta a ridere, a smascellarsi. Bueno, no? Chiedevano, ridevano come ubriachi. Sapete cos'era la lepre? Già, la lepre era il bambino. Le ragazze ebbero un'esclamazione di orrore. Gli uomini stavano ad ascoltare pallidi. Emanuela s'era stretta ad Andrea e donna Ines, affannata dal lungo discorso, di nuovo si sventolava col grande ventaglio e si scostava il vestito dal petto sudato. E lei? Chiedeva Luis. Come si è salvata? Si è salvata così. Il giorno dopo tornano le belve e si portano via le monache. Las pobrecitas se van come al martirio, ma tornano poi e non pregano più. Stanno buttate in un angolo, senza più le cuffie, i capelli corti e disordinati, e dopo poco chiamano lei, la muchacha. Vamos, dicono, a passear. Ma ha detto che non aveva paura, si capisce che è di sangue freddo. Meglio morire che quest'incubo, pensava. Le altre piangevano e lei se ne va con loro. Dice che aveva deciso, prima che sparino, strillo, viva la falange! Almeno il fidanzato l'avrebbe saputo. E poi, sai, come nei film, all'ultimo momento arriva il console e se la porta via, svenuta. È stata 10 giorni in casa di lui, delirando, e sempre gridava, viva la falange, viva la falange! E sputava perché sentiva in bocca il sapore di quel bambino morto. Donna Inez, soffocata dalla commozione, s'arrestò. Tossì e continua. Riparte domani. Il console la rimanda in America del Nord. Io le ho dato quanto ho potuto. Si dispera perché teme che le abbiano ammazzato il fidanzato. Una vejessa la muchacha. Poi, vedendo che gli altri non osavano più dire parola, impietriti da quel racconto, fece: basta, così sta la nostra patria. Ma tra poco le truppe nazionali si stanno preparando, ci sarà la guerra. La guerra. I giovani ascoltavano senza guardarsi. Se c'è la guerra, pensava Vinca, lui sparte. Pilar aveva preso il braccio di Pepe e lo stringeva. Emanuele e Andrea erano spaventati come se quella tragedia dovesse travolgere anche loro. Donna Inés seguitava a parlare, facendosi vento con un grande ventaglio sevigliano sul quale era dipinta una piazzetta cinta di maioliche azzurre, una casa con i gerani ai balconi e la torre della Giralda che sovrastava, appuntata alla stecca mediana. Vinca seguiva con gli occhi il ventaglio e la donna se ne avvide. Che guardi, cica, la Giralda, ahi! E si premette il ventaglio sul cuore. Chissà, si laveremo più. La Giralda. Non c'è un po' d'acqua, Luis? Ho sete. Grazie, hijo. Ahi, la Giralda. Pilar, bevi anche tu. Dicono dunque che sia questione di giorni. Mentre gli altri scrollavano la testa in un silenzio raccolto, Pilar disse con voce recisa: Io voglio sposare Pepe. Se parte. Non resto sola così, mi muoio. E scoppiò a piangere. Si imbruttiva, perdendo quella gravità degli occhi e la compostezza del viso. Donna Inés strillò: Hija, non me piangas, par carità! Che dice che Pepe parte? Restano tutti i ragazzi. Che fanno loro quattro lassù contro tanti di quei barbari cinici? Che fanno loro tre? No, donna Inés, Luis la interruppe. Io parto. Gli altri due lo ascoltavano tacendo e gli riprese: Parto. Al primo annuncio me ne vado alla falange. Chi resta? Voi potete restare? Donna Inés, sbigottita, guardava il figlio, ma Ignacio scosse la testa. Pepe insisteva: Tu vorresti che io rimanessi, Pilar? Fu donna Inés a smagare la scena. Disse: Ma perché parliamo di questo? Vamos, vamos, ragazzi, sono discorsi questi? Si parla per parlare, nessuno parte, nessuno. Pilar, alma mia, no se mueve, Pepe. No se mueve, vamos, vamos. E cambiò discorso. Luis, non ci mostri i progetti? Egli prese un fascio di disegni dallo stiratore e li mostrò. Questo è il progetto che ha partecipato al concorso per la colonia estiva. Fiasco, siamo stranieri. Questo è un progetto di casa popolare. Vi abbiamo lavorato in tre, Pepe, Ignacio e io. Niente di fatto. Pilar ripeté: Tu también, Pepe? Io también. Questo è il progetto di una villa razionale: terrazzo, solarium, garage nel giardino, tennis, piscina. Ma prima di mostrare in giro il disegno, chiese perplesso: Si costruiranno più da noi ville, piscine? Nessuno osò rispondere. Erano tutti sotto il peso di un incubo. In tutti vagava quella parola tremenda, guerra. E infine Donna Inés disse: Hijos, voi siete giovani. Avete tempo di costruire ville, molte ville, però nosotros, nosotros. Torneremo a passeggiare al ritiro noi, i vecchi. André ed Emanuela se ne andarono dallo studio per i primi. Si sentivano mortificati, come se fossero stati costretti a esibire la loro fiorente salute in un tubercolosario. Vinca sarebbe tornata in collegio accompagnata da Luis. Nelle strade del vecchio quartiere le donne ciabattavano spappate dal caldo e i ragazzini uscivano dal portone in camicia. Emanuela respirò, sollevata. Fa bene essere fuori. È come quando si rientra in patria subito dopo aver varcato la sbarra di frontiera. Un passo, ma è già casa propria. Qui non si sente più la pena di quella parola, guerra. Sì, poveracci. Che faremo noi, esiliati dalla patria? È la cosa che temerei di più al mondo. Fare qualunque lavoro, portar pietre sulle spalle, magari, ma qui, nella terra nostra, sentire la nostra lingua. Potresti vivere fuori d'Italia, tu? Non so. Una vita nuova mi attrae sempre. Il principio sarebbe duro, certo, ma poi mi adatterei. Ah, io no, mai. E mi dispiace che tu dica così. Io sarei come loro, disperato. Anzi, ti dirò che ho cambiato idea sulla piccola spagnola. Su Vinca? Sì. Perché? Sai, quella volta che minacciò un compagno con l'ombrello perché le aveva detto non so che cosa passando, mi parve squilibrata. Pensavo che tu al suo posto avresti seguitato a camminare fingendo di non aver udito. Non so. Sì, tu avresti fatto così, ma ciò non vuol dire che lei sia pazza e tu ragionevole. Vuol dire soltanto che lei è spagnola e tu italiana. Certe cose non vanno giudicate secondo i caratteri e l'educazione, ma secondo i paesi. Così, quando appena entrati ho inteso parlare coi giovani, ho pensato che si trattasse di un gruppo di esaltati, invece poi ho capito che se ci sarà la guerra saranno certo i primi ad arruolarsi. Ho capito anche che Vinca ama Luis, l'ho capito quando ha trovato meravigliosi i progetti. Mai qualche cosa è solamente bella per uno spagnolo, deve essere bellissima almeno. Tutta la loro lingua è fatta di superlativi. Infatti, quando la signora parlava di me e di Vinca, della nostra... E sì, insomma, della nostra bellezza mi sono sentita a disagio, offesa, come se ci avesse spogliate in pubblico. Ecco, e invece Vinca era raggiante. È questione di latitudine. Sì, è giusto ciò che dici. Vinca ci ha raccontato, per esempio, che a Cordova chi nell'annata è caduto in grave peccato segue la processione del Venerdì Santo incappucciato, scalzo e portando sulle spalle una croce. Forse non è affatto pentito, e dopo Pasqua ricomincia da capo. Ma aver dato pubblica espiazione è come essere lavato dalla colpa. Però, appunto, per questo livello superiore di entusiasmo nel quale vivono, la Spagna è bella. Dopo un silenzio riprese: Mi piacerebbe andare a Siviglia con te, o in montagna. Due cose diverse, ma devo far nascere in te l'amore della montagna, dovrai abituarti. Sarebbe bello fare un viaggio di nozze, eh? Sacco in spalla, di rifugio in rifugio. Originale, no? Non si avrebbe la faccia degli sposi novelli. Ma a quale donna avrebbe il coraggio di passare dall'abito bianco, il velo, alle scarpe chiodate e i calzoni? Emanuela non rispondeva ed egli riprese: Vedi? Neppure tu sei entusiasta del programma. Potresti almeno dire di sì per compiacermi. Un treno secondario, si va in terza classe e dopo si va in viaggio di nozze a piedi. Sarebbe bello al mattino aprire la finestra su quelle albe rosee di alta montagna, no? In ogni caso hai tempo di pensarci su. Beh, sei arrivata, Noela, ti lascio. Guarda di studiare un po' stasera, se no non ti porto più a spasso. Non perderti in chiacchiere come sempre. Sono già le 8 ed è ancora giorno. Addio, bisogna che sia puntuale, sai? Da ieri papà mangia dietro il giornale. Ha alzato le mura di Gerico. Invece con la mamma si fanno progressi. Mi ha domandato come ti chiami e quanti anni hai. Che te ne importa? Ho risposto, se non volete saperne. Ma poi le ho detto tutto. Ciao adesso e studia stasera quel mio disegno di viaggio in montagna. Rientrando, Emanuela davvero ripensava alle parole di lui. Il vestito bianco, il velo. Sarebbe stato difficile evitare tutto questo. Un treno secondario, gli scarponi ai piedi, terza classe. Forse era meglio tacere fino allora e poi, nella debole luce dello scompartimento, prendergli le mani. Senti, Andrea, devo confessarti una cosa grave. Ma tu sei un ragazzo intelligente, un ragazzo che capisce.